L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 con l'appuntamento settimanale dedicato all'Europa, dedicato a quello che viene deciso, a quello che viene scelto nel cuore d'Europa, ma non solo. Cerchiamo poi anche quelle che sono le ripercussioni positive e negative nella nostra quotidianità. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, il network paneuropeo di radio, di voci, di punti di vista diversi, ai quali anche noi facciamo parte, dove andiamo anche ad accedere per avere altri contributi. Ogni settimana un viaggio che potete fare con noi anche virtualmente attraverso la nostra pagina Facebook, facebook.com/l'altra Europa, oppure su Twitter l'account è Federico Taddia Piazze Virtuali, dove potete trovare minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Si parte e sarà il primo viaggio un viaggio lento, un viaggio anche di disperazione, un viaggio che è una richiesta d'aiuto, ma un viaggio anche che è una scelta di coraggio, là, verso Bruxelles. Lorenzo Torto ha 25 anni, vive in provincia di Chieti, ha una grave disabilità, lo costringe a vivere su una sedia a rotelle fin da quando era bambino. Lorenzo ha un sogno, che è il sogno di chiunque, e questo sogno si chiama un lavoro, si chiama occupazione, si chiama poter sperare, poter progettare il proprio futuro. C'è la crisi, questo è un sogno quindi che in tanti non riescono a realizzare. In più c'è l'handicap, che è questo fardello che ti tiri dietro, che potrebbe essere anche una garanzia per avere dei privilegi in certi ambiti, perché la legge lo dice che alcuni posti vanno riservati a chi ha delle disabilità. Questo però non accade perché ci sono mille scappatoie. Lorenzo aveva due scelte, o quello di piangersi addosso o alzare la voce. Lui ha preferito alzare la voce, questa voce è arrivata fino a Bruxelles, nel cuore del Parlamento europeo, dove lui è andato, ha fatto questo viaggio fisico per farsi ascoltare, per portare la propria petizione. Lorenzo è qua con noi per raccontarci quello che ha combinato. Ciao Lorenzo. Pronto, buongiorno dottor Taddia. Grazie. Vi ringrazio di tutto per il vostro impegno, per il vostro amore su questo problema. Sono andato a Bruxelles non solo per parlare del mio problema, ma soprattutto del problema che riguarda tante persone che come me soffrono, ma soffrono per la mancanza di una direttiva che impone agli Stati membri di adoperarsi e di cercare una soluzione per quanto riguarda il problema del lavoro, di dare dignità, perché non è fatto, uno può anche lavorare, ma il disabile deve avere dignità, deve essere considerato una persona speciale e soprattutto devono essere valorizzate le sue grandi doti. Ed è un grande problema culturale che affligge il nostro paese e che ho notato quando sono andato a Bruxelles. È inaccettabile moralmente per me, ma credo per tanti altri disabili, perché non si tratta di un'elemosina, ma si tratta l'applicazione di un diritto. Lorenzo, perché comunque sulla carta sono state fatte cose, la strategia di Lisbona, questo documento nel 2000 mette al centro proprio il lavoro anche a favore dei disabili, c'è una direttiva europea, la 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamenti in materia di occupazione, però poi c'è anche una procedura di infrazione proprio nei confronti dell'Italia, perché questa direttiva non è stata adottata? Come stanno le cose? Dottor Taddia, parto dal giusto presupposto. La strategia di Lisbona definisce le linee guida di come deve essere applicata e di come devono essere tutelati i disabili in questo mercato del lavoro. E fin qui ci siamo. Non siamo per quanto riguarda questa direttiva /2000/78, che in realtà non viene applicata, ma non viene applicata dal 2006, adesso siamo al 2013, questo Stato membro, come ho detto io a Bruxelles, l'Italia non si può dire più uno Stato membro, lo Stato membro si deve adoperare per garantire ai propri figli una vita migliore, una dignità migliore, cioè ognuno di noi ha il diritto di costruirsi un futuro sulla base di regole certe. Quando si dice in Italia c'è la legge 68 del 99 che stabilisce giustamente un quadro generale in materia di occupazione, di condizioni di lavoro, in realtà questa legge 68 non ha nessun valore se non viene applicata questa direttiva europea, perché questa direttiva comunitaria non è che dice, parla chiaro, dà le linee guida in cui dice ai datori di lavoro voi dovete assumere, ma non perché ci fate una cortesia, perché lo dice la legge. Mm-hmm. Quindi non è inconcepibile che dal 2006, adesso siamo al 2013, ancora ad aspettare una giustizia che tarda ad arrivare, perché questa è la situazione. Siamo succubi di un sistema che non va, non funziona, perché Lorenzo, la sofferenza umana è di chi la prova, io che sono su una sedia, o tante, la famiglia, tutto il sistema che c'è, ma questo è generale. Ecco, prima di salutarci ci puoi dire con cosa sei tornato a casa, con delle promesse, con delle certezze, con un senso di rassegnazione? Cosa... Allora, io ripeto, ringrazio il Signore che mi ha dato la forza di avere la parola e la capacità di esprimermi. Ho avuto il coraggio di farlo per tante persone che come me soffrono e non hanno la fortuna che ho io di avere una forza e un coraggio in più. L'ho fatto con la consapevolezza di dire cerchiamo di dare una mano a tutti, perché questo mio appello è rivolto a tutti, di dare certezze e un futuro a tutti. Sono andato a Bruxelles, mi hanno garantito che cercheranno di scrivere delle lettere, delle missive sia allo Stato membro che alla Corte di Giustizia per accelerare la definizione di questo procedimento di infrazione, perché non si può stare in Europa e pensare solo ai benefici che l'Unione dà, ma quando c'è un procedimento di infrazione significa che qualcosa non ha funzionato nel sistema. Loro si sono impegnati a cercare di trovare una soluzione, ma non una soluzione, dell'applicazione del diritto. Perfetto. L'applicazione del diritto, perché sì, la cosa, è la cosa più importante, nel senso che quello che stai chiedendo è questo. Io non chiedo che una legge venga applicata. Esatto. Grazie davvero Lorenzo, complimenti. Grazie, dottor Taddia, grazie a voi, ringrazio al pubblico. Facci grazie. Sapere, ciao, buon lavoro, in bocca al lupo, ciao ciao. Europost-it. Europa, è ora di fare l'inventario. Qual è l'immagine che associamo all'Europa? Che cosa ci viene in mente quando si parla della sua cultura, la sua storia, la sua gente? Cosa ci fa sentire davvero europei? Se pensiamo all'Europa, qual è l'immagine che le associamo? Quali sono le immagini comuni legate alla sua storia, alla sua cultura? Per scoprirlo, il Goethe-Institut ha deciso di fare l'inventario dell'Europa, un sondaggio online in 30 paesi appartenenti all'Unione Europea o con essa confinanti. L'obiettivo è comporre un quadro dell'immaginario collettivo europeo, scrivere una sorta di canone culturale che ci definisce, indagando su cosa ci tenga uniti e su quali siano le nostre principali conquiste culturali, prestando anche attenzione all'idea che i nostri vicini hanno dell'Europa. Tutti possono partecipare al sondaggio. Basta andare sul sito goethe.de/europaliste, dove ci sono le domande tradotte in 24 lingue. Tra i partecipanti saranno sorteggiati dei premi, tra cui un viaggio a Berlino, un iPad e una selezione di film europei. Yeah, I'd like to check in. Very good. So, are you with the Cornchurch Group? That's right. If I could have your name, please, sir? Peter Headley. Very good. And just for security, could I have your date of birth? All right, the 4th of December, 69. Thank you, Mr. Headley. Would you prefer a smoking or non-smoking room? Non-smoking, please. Very good. And which newspaper? Quello che state ascoltando è l'audio di uno spot di Heiko Combs, autorità inglese indipendente che diffonde notizie utili per la società. Questo è un video che pone l'accento sulla protezione dei dati. C'è un tizio che si registra in albergo, alla reception gli chiedono dati personali, gusti, il numero di scarpe, l'orientamento sessuale, insomma questo per mettere l'accento su quante informazioni facciamo trapelare in rete e non solo, anche nella nostra quotidianità senza accorgercene. I garanti delle privacy d'Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Francia, Germania e Spagna hanno aperto un istruttorio nei confronti di Google. L'accusa è quella di utilizzare in maniera illecita i dati personali degli utenti. Questa è la notizia di pochi giorni fa e proprio il discorso della privacy è al centro della riflessione che Euronet Plus propone questa settimana. Cosa sta succedendo? C'è un forte confronto, una forte attività di riflessione e non solo, perché ci sono anche già delle direttive su quello che riguarda la privacy dei nostri dati, della nostra identità in rete. Questa riflessione è fatta a livello europeo. La commissione, Viviane Reding, sta prendendo posizioni, prendendo decisioni, quindi volevamo anche noi porre l'accento su quello che sta accadendo e per farlo abbiamo invitato il presidente di Alleanza per Internet, Francesco Pizzetti, giurista ed ex presidente dell'autorità garante dei dati personali, oltre a essere ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Torino e presso l'Università Luiss di Roma, quindi un vero esperto in materia. Buongiorno Pizzetti e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Grazie, tra l'altro so che è uscito un attimo da un convegno in cui è relatore, quindi ci scusiamo. E Pizzetti, cosa sta succedendo? I nostri dati personali, ma di noi semplici cittadini, oggi all'interno dell'Unione Europea sono tutelati sul web? Beh, incominciamo a dire che l'Unione Europea è dal 95, che è una direttiva di protezione dei dati personali. La direttiva era stata pensata prima che esplodesse il fenomeno internet, ma ha continuato ampiamente a sviluppare la sua attività protettiva in tutti questi anni. Adesso è in discussione un nuovo regolamento che avrà due effetti: essere vincolante per tutti i paesi, mentre la direttiva è una direttiva di armonizzazione, e avere norme molto più specifiche e contingenti anche sul fenomeno della protezione dei dati web. Questo regolamento naturalmente incontra molti ostacoli anche dagli operatori del mondo web, soprattutto delle cosiddette over the top, cioè delle multinazionali dei servizi forniti in rete, perché naturalmente pone dei limiti molto precisi all'uso dei dati personali degli utenti della rete, fatti per finalità che agli utenti sono ignote o fatti per finalità commerciali o comunque utilizzati senza un consenso specifico da parte degli utenti. Questa è la grande preoccupazione dei garanti europei, la regola della protezione dei dati è: io devo sapere che uso fai dei miei dati, non puoi usare i miei dati per finalità che a me non siano note e che io non ti abbia consentito di fare. Ora, il fenomeno rete, questo è terribilmente difficile da ottenere, ma soprattutto è terribilmente difficile da spiegare ai service provider, che per noi è un valore assoluto, non negoziabile e non aggirabile. Pizzetti, le chiedo una cosa, ma quando noi distrattamente clicchiamo accetto alle mille richieste che ci vengono fatte in rete, anche Certo, sul consenso dei dati, pericolo. Cioè siamo noi che non siamo abbastanza attenti e non andiamo a leggere, sì, quello che c'è scritto, o saremo tutelati? Ma la cosa ovviamente è complicata. Allora, due cose, intanto sono formule molto giuridiche, fatte anche comprensibilmente perché servono per i legali e per i giudici, ma quasi impossibili da capire dai cittadini. Allora noi i garanti europei da tempo chiedono che queste formule siano accompagnate da spiegazioni chiare, semplici, comprensibili da chiunque. Secondo, le regole americane sono molto meno restrittive e protettive di quelle europee, e quindi la resistenza delle multinazionali americane ad adeguarsi alle regole europee è molto forte. Sì. Terzo, alla fine della storia il problema è questo: chi opera su internet e ci fornisce servizi eccezionalmente utili si remunera con i nostri dati, invece di farci pagare in denaro ci fa pagare attraverso l'uso dei nostri dati personali per finalità commerciali, di profilazione e così via. Quindi è anche uno scontro complesso nel quale bisogna che tutte le parti comprendano le ragioni degli altri, non soprattutto gli operatori della rete non cerchino di aggirare le regole invece di affrontare una discussione chiara, trasparente alla luce del sole. Ora l'ultimo problema, quello di cui voi parlavate, di questa indagine delle garanti europei congiunta rispetto a Google, nasce da un'innovazione di Google del marzo 2012 ad oggi, in cui Google offre una sola account e una sola policy privacy, cioè io accettando la proposta posso usare questa mia accettazione per tutti i servizi che Google mette a mia disposizione. Ora questo per l'utente è una comodità, dice do il consenso una volta per tutte, certo. Per Google è un enorme valore perché consente di capire che è sempre lo stesso utente qualunque sia il... No, attenzione che abbiamo è caduta la linea, credo ora cerchiamo di recuperare. È pronto? Sì, sì. Eccoci qua, scusi, c'è stato un momento di di disconnessione. Non so dov'è che ci siamo disconnessi. No, che per Google è un affare. Per Google questa nuova policy privacy è un grande vantaggio perché consente naturalmente di sapere che io sono sempre lo stesso utente qualunque sia il servizio che sto utilizzando e qualunque sia l'apparecchio da cui utilizzo questo servizio. Quindi per me è un vantaggio perché non devo dare il consenso ogni volta che accedo a un servizio. Per Google è un vantaggio perché sa che sono sempre io. Il problema però per i garanti è che questo innalza moltissimo il livello di pericolosità, perché appunto consente di profilare una persona in tutte le sue attività, se lei chiede la pizzeria più vicina, se lei chiede l'accesso al motore di ricerca per avere un'informazione, se lei usa YouTube, se lei usa altre piattaforme di comunicazione che Google mette a disposizione. Allora i garanti europei hanno detto a Google devi spiegarci, devi farci capire bene quali sono i livelli di protezione dati che assicuri, per quanto tempo tieni i dati, devi assicurarci che non incroci i dati che raccogli nei diversi servizi per fare una profilazione al quadrato e al cubo. E le risposte finora date da Google, dicono i garanti europei, io ho partecipato solo alla fase iniziale, ma i comunicati sono chiarissimi, i garanti europei non sono stati soddisfatti dalle risposte finora avute, hanno fatto delle raccomandazioni alle quali, dicono i garanti europei, Google non ha dimostrato di essersi adeguata e di qui questa attività ispettiva. Vorrei che fosse chiaro qual è il problema, cioè noi dobbiamo proteggere i cittadini dal fatto che siano profilati in tutta la loro attività quotidiana quando si servono di servizi offerti dalla rete, quindi che io sia profilato e si sappia quale pizzeria ho chiesto di andare, quale mappa di città ho visitato, a quale sito mi sono collegato per tramite il motore di ricerca e via enumerando. E quindi si dice a Google benissimo la policy privacy, ma garantisci che non incroci i dati, certo. Garantisci che i dati raccolti per fornire un servizio non sono incrociati con quelli raccolti per fornire un altro servizio, ed è su questo che le risposte sono ancora insoddisfacenti, tanto da aver messo i garanti europei in serissimo allarme. Pistetti, lei di solito prima di cliccare su accetto, quindi legge sempre, vero? È uno di quelli che un'occhiata gliela dà. Diciamo che sono al vantaggio di sapere con maggiore precisione dei miei concittadini gli effetti che possono essere derivare dall'accettazione di un servizio, dall'utilizzazione di un servizio, dal mettere un'opinione su Twitter, dal postare una foto su Facebook, da mettere un filmato su YouTube. Allora qui ci sono due problemi. Da un lato dobbiamo spiegare tutti i giorni il più possibile, vi ringrazio di questa occasione, ai cittadini quali sono i problemi, come abbiamo spiegato ai bambini che non si attraversa la strada senza guardare, certo, a destra o a sinistra. Dobbiamo spiegare, non impedire l'accesso a questi servizi, ci mancherebbe, ormai sono indispensabili. No, però offrire gli strumenti per comprendere. Così come non potrò mai dire a uno non andare in aereo, non, certo, salire sull'automobile, però gli potrò dire allacciati la cintura di sicurezza. Certo. Dall'altro chiedere ai service provider, come abbiamo chiesto ai costruttori di automobili, di aerei, eccetera, misure di sicurezza sempre più adeguate, sempre più chiare, sempre più trasparenti. Qui il problema fondamentale è che non si incrocino, non si tengano i dati per un periodo di tempo indeterminato e non si incrocino i dati raccolti da parte della stessa utente quando usa un servizio e quando ne usa un altro. Chiarissimo, perché lui dà il consenso a usare i suoi dati per avere quel servizio, poi 2 ore dopo per avere quell'altro. Se tu me li incroci senza avvisarmi, commetti un illecito. Grazie davvero a Francesco Pizzetti, presidente di Alleanza per Internet. Buon lavoro, Pizzetti. Grazie a voi, grazie molte, arrivederci. L'Europa come grande opportunità, e sappiamo cosa significa nel senso pratico della cosa, sono i soldi, sono i fondi, la disponibilità di avere importanti finanziamenti per dei progetti, e quindi si parte dall'Europa, dal cuore dell'Europa, e si cerca di arrivare poi alla regione, alla provincia, al comune. Oggi vogliamo proprio aprire un link diretto tra quella che è il macro, quindi l'Europa nel senso proprio di unione, e quello che è il micro, cioè il territorio, il nostro paese, il nostro comune. E per farlo prendiamo lo spunto proprio da un forum sul rilancio industriale che si terrà il 10 aprile, promosso dal Comitato delle Regioni. Un appuntamento importante perché si ragiona proprio su questo, si ragiona su come questa pioggia di soldi, che comunque c'è perché c'è la disponibilità, possano poi avere ricadute sostanziali, ricadute concrete nelle comunità locali. E per farlo abbiamo con noi il vicepresidente del Comitato delle Regioni. Diamo il benvenuto al presidente Mercedes Bresso. Buongiorno Bresso. Buongiorno. Grazie intanto per essere qua con Grazie noi. Grazie a voi. Che cos'è il Comitato delle Regioni? Ce lo può spiegare in sintesi? Guardi, è un'assemblea di eletti regionali di 350 persone che vengono da tutti i 27, oggi già 28 paesi europei, e rappresenta a poteri consultivi, ma è un po' come, diciamo, la seconda camera delle regioni che dovremmo avere nel nostro paese, non abbiamo, con poteri consultivi ma obbligatori su tutte le questioni che riguardano le regioni, e sono tantissime perché, come lei ha ricordato, i fondi europei sono poi utilizzati concretamente dalle regioni e attraverso le regioni, dalle città, dai territori, dalle imprese di quei territori. Mm-hmm. Quindi fondi che ci sono a disposizione col Comitato delle Regioni, immagino, insomma, cercate di ottimizzare e cercate anche di portare istanze, certo, fare richieste. Noi siamo collocati nella fase ascendente, cioè quando si fa la legislazione e si decidono le risorse, e proprio in questo periodo abbiamo lottato strenuamente, con anche un successo, perché nel taglio generale del bilancio europeo i fondi per le politiche strutturali sono quelli che hanno avuto minori tagli, e anche quelli per le politiche agricole, cioè quelli direttamente gestiti dalle regioni. Quindi un piccolo successo l'abbiamo avuto, soprattutto lavoriamo per portare la nostra esperienza, perché siamo anche poi gli utilizzatori, per portare la nostra esperienza in quello che è uno dei grandi temi del dibattito europeo, cioè la semplificazione delle procedure, perché come è noto a Bruxelles sicuramente le risorse sono importanti, ma poi a volte sono di difficile utilizzazione. L'esperienza concreta, quando si fanno i regolamenti e si votano i regolamenti, di chi è utente concreto di questi fondi, credo sia molto utile. Infatti, diciamo, pur essendo noi un organo consultivo, il nostro peso sta crescendo proprio per questa competenza che portiamo diretta, e credo sia utile nel dialogo fra i territori, come diceva lei, e l'Europa, che è vissuta un po' lontana. Certo, il 10 aprile questo forum sul rilancio industriale, ci sarà il commissario Tajani insieme ad europarlamentari e funzionari dei 28 paesi membri. Certo. L'11 e 12 aprile una sessione plenaria del comitato, parteciperà anche il presidente del Parlamento Martin, certo, Schulz. E parleremo proprio di questo tema che lei ricordava, è assolutamente essenziale, di come rilanciare le attività produttive e industriali in Europa, che possono apparire ormai deboli, rappresentano grosso modo il 16% dei posti di lavoro e del peso sull'economia, ma però rappresentano anche il luogo dove si fa la maggior parte dell'innovazione, da cui poi parte su tutto il resto, sui settori terziari, su tutto il resto dell'economia. E quindi mantenere una struttura produttiva e soprattutto rinnovarla, modernizzarla, è essenziale. Noi di questo discuteremo, cioè di come la nostra esperienza può essere portata a livello europeo per facilitare una politica, la definizione di una politica industriale che risponda alle esigenze dei territori e alle esigenze dell'innovazione. Certo. E Bresso, mentre preparavo la nostra intervista, stavo facendo un po' di ricerche, sono incappato in Facebook e ho trovato un testo che mi ha incuriosito, perché sono anche le coincidenze e le assonanze. Un testo scritto da un assessore che il titolo era «Perché portare in Consiglio Comunale una delibera sui fondi europei?» e raccontava quello che stava facendo. Il comune è quello di Cesena, lei è Lia Montalti, assessora alle politiche ambientali e coordinatrice del progetto In Europa del comune di Cesena, si occupa direttamente di fondi europei, di come i fondi europei possano essere una boccata d'ossigeno per le nostre amministrazioni. L'assessore Montalti è qua con noi, buongiorno Lia. Buongiorno Tazia. Cosa significa entrare in consiglio comunale e parlare di fondi europei? Beh, il comune di Cesena è impegnato già da diversi anni sul fronte delle politiche europee tradotte a livello territoriale in 12 progetti europei che hanno permesso al Comune di ricevere circa 2 milioni di euro di finanziamenti su temi come l'energia, la sostenibilità, le politiche dell'occupazione giovanile. Siamo in questa fase molto attenti al percorso della nuova programmazione. Come ricordava la Presidente Bresso, per l'Italia si parla di circa 60 miliardi di euro nel prossimo settennato tra fondi europei e fondi nazionali, e in questa nuova fase le città, anche da quelli che sono gli indirizzi europei, delle politiche europee, possono avere un ruolo non solo nella fase operative di sviluppo dei progetti, ma anche all'interno del percorso della programmazione, e noi ci vogliamo essere, quindi questo era il senso della delibera che abbiamo portato in Consiglio Comunale giovedì. Presidente Bresso, i nostri amministratori sono abbastanza allenati nel capire cosa succede a Bruxelles e dintorni? Sì, spesso veniamo criticati perché ce ne occupiamo, ma io credo che sia essenziale. Come adesso l'assessore ricordava, se ai 30 miliardi che arriveranno dall'Unione Europea si aggiungono i cofinanziamenti, è una massa di 60 miliardi che rappresenterà praticamente l'essenziale degli investimenti fattibili. Lei sa quanto in questo momento i tagli dei bilanci renda difficile fare altri investimenti, e usati bene sono essenziali. Noi abbiamo un sito che raccoglie le buone pratiche delle regioni, e non so, dalla mia stessa regione, dove i fondi europei hanno finanziato la cittadella politecnica, dove sono insediate industrie, sono nate industrie innovative nell'incubatore, ne potrei citare molte, ma non so, la regione del Brandeburgo che ha fatto con fondi europei un bellissimo incubatore di attività innovative dove ci sono già 2500 persone che lavorano. Insomma, ovunque sono i fondi è chiaro che non permettono di risolvere da soli la crisi, ma certamente permettono di lavorare a uscire dalla crisi con attività innovative, quindi competitive a livello europeo e anche a livello mondiale. E credo che sia giusto che i nostri amministratori si preparino nella fase della programmazione, perché se non sono pronti poi si perde tempo nella fase successiva dei bandi con enti locali che non sono ancora disponibili e imprese che non sono ancora disponibili a presentare i progetti. Quindi fa benissimo il Comune di Cesena, io credo che molti altri lo stiano facendo, a prepararsi con progetti che poi siano immediatamente realizzabili. In un momento di crisi non si può perdere tempo. www.core.europa.eu è il sito che citava la Presidente Bresso. Certo. Assessore Montalti, un sogno nel cassetto targato Europa che le piacerebbe realizzare nel prossimo periodo? Sì. Rispetto alla mia città, la città di Cesena, noi abbiamo una biblioteca malatestiana che è tra i beni riconosciuti dall'UNESCO come memoria del mondo, e quindi riuscire a fare in modo che la nostra biblioteca, mantenendo la sua storicità, possa diventare anche un luogo digitale aperto all'Europa, e quindi stiamo lavorando per avere dei finanziamenti diretti su questo progetto. D'altro canto, le città in questi anni hanno sviluppato moltissime competenze in ambito appunto di progettazione europea, ma anche nell'ambito dell'internazionalizzazione, perché attraverso i nostri 12 progetti europei noi quotidianamente lavoriamo con circa un centinaio di organizzazioni europee come comuni, università, centri di ricerca, e quindi ci stiamo veramente internazionalizzando ed aprendo allo scambio di buone pratiche e di idee, per cui in questa fase di programmazione anche attraverso ANCI stiamo cercando di lavorare per fare in modo di essere presenti nell'elaborazione dei contenuti e nell'elaborazione di quelle che sono le strategie, quindi certo, di essere presenti laddove ci si confronta e quindi si lavora a monte su come destinare poi i finanziamenti. L'Europa, le regioni, i comuni, questo è il bel percorso che abbiamo fatto in questa mattinata. Grazie all'assessore Montalti, assessore del Comune di Cesena, e grazie Presidente Bresso e buon lavoro per questo importante appuntamento che vi aspetta. Grazie, arrivederci. Alla prossima. A fare questo viaggio dall'Italia al cuore d'Europa, passando anche per la Grecia, per Cipro, per quello che sta accadendo, per quello che è accaduto in queste settimane, e l'osservatorio privilegiato è quello della cosiddetta locomotiva d'Europa, la Germania. E per fare questa fotografia abbiamo invitato il direttore del settimanale tedesco Die Zeit. Diamo il benvenuto a Giovanni Di Lorenzo. Buongiorno Di Lorenzo. Buongiorno, salve. Grazie intanto per il tempo che ci dedica, so che è impegnatissimo. Volentieri. No, piacere. Di Lorenzo, è ancora un punto, un osservatorio privilegiato la Germania, vedere l'Italia, vedere le altre nazioni, vedere l'Europa dalla Germania e comunque vederla con un paio di occhiali diversi? Ma quello che io osservo in tutti gli ambienti politici seri è grande preoccupazione guardare a molti paesi dell'Europa, soprattutto del sud, perché ovviamente la Germania non può essere locomotiva per tutta l'Europa e non può essere locomotiva per da sola per i paesi in bilico, come abbiamo osservato negli ultimi mesi. Mm-hmm. Perciò c'è molto interesse da parte della Germania che ogni paese per sé trovi una via per uscire dal debito pubblico, dalla recessione e dalla immobilità per quello che riguarda il processo di riforme. Mm-hmm. Ma questa che ha delineato in poche frasi è il pensiero del governo tedesco, anche il pensiero dell'opinione pubblica? C'è distanza tra quello che è il pensiero della Merkel, presa come simbolo della classe dirigente, e quello che poi sono i cittadini, quello che è il polso, un po' l'umore della strada? È interessante perché proprio in questi giorni si sta costituendo un partito anti euro e anti europeo. Mm-hmm. Che cerca di cavalcare la preoccupazione e il malcontento verso l'idea di dover aiutare tutti i paesi europei. Perciò bisogna dire che anche se l'idea in molti ambienti politici italiani e anche nell'opinione pubblica è che la Germania è la nazione cattiva che impone all'Italia delle cose che non vuol fare, la Merkel è un pro Europa e con questo anche pro Italia, anche se non sembra. Certo. Di Lorenzo invece un'altra riflessione. So che i grillini, o comunque il successo del Movimento 5 Stelle in Italia, ha scatenato polemiche, riflessioni, ragionamenti in Germania, ma in tutta Europa. Sì. Qual è stata la riflessione a qualche settimana dal voto? Perché sicuramente c'è stata una reazione di pancia, ma adesso forse qualcosa è cambiato. Ma guardi, quello che non si riesce a capire in Germania, questo anche tra la gente così normale, non giornalisti, non politici, è come un paese che ha dei problemi così grossi come li ha l'Italia, il debito pubblico, la disoccupazione, anche e soprattutto quella giovanile, le famiglie che non sanno come arrivare al 30 del mese, con una situazione simile ci si possa permettere di non costituire un governo, una cosa che nessun tedesco riesce a capire. E anche qualche italiano fa fatica, glielo confesso. Ho capito, ma lei non ha chiesto il punto di vista della Germania. Ha ragione. Direttore, grazie davvero. La prossima copertina di Disneyland su cosa sarà? L'ha già deciso? Ma la faremo o sulla Corea, sul conflitto in Corea, oppure lo dedicheremo a un famoso filosofo tedesco che ha pubblicato un libro nel quale chiede una riforma radicale, proprio rivoluzionaria delle scuole. Ah, quindi proprio un ragionamento su proprio il sistema scolastico che... Esatto, esatto. Seguiremo con interesse. Da questo vedi che i nostri problemi sono un po' più relativi. Assolutamente. Grazie davvero Di Lorenzo, buon lavoro, alla prossima. Grazie. Grazie. Siamo il team, la squadra di Italia o Spagna, Burguese Magna, e abbiamo fatto un piatto tipico spagnolo, un po' attrezzato in modo italiano, no? Decorato in modo italiano. La tortilla spagnola. Sonorità che arrivano direttamente da radiobue.it, la web radio dell'Università di Padova, ed è proprio Radio Bue in collaborazione con ESNE Padova che ha dato vita a una prima edizione lo scorso anno. Adesso ci si prepara per il secondo appuntamento martedì 16 aprile, l'ora è l'ora di pranzo e si terrà la seconda edizione di Erasmus Master Chef. Per capire di cosa si tratta abbiamo con noi l'ideatrice del tutto, diamo benvenuto a Gioia Lovison. Ciao Gioia. Ciao, buongiorno. Cosa accadrà il 16 aprile alla mensa Forcellini di Padova? Forcellini, giusto? Sì, è giusto. Si daranno sfida delle squadre di studenti universitari ed Erasmus, composte da 2 a 4 persone, a suon di forchette, perché è una sfida culinaria universitaria con piatti tipici dei paesi di provenienza dei ragazzi. Quindi potranno accedere gli studenti Erasmus che frequentano l'Università di Padova portando un piatto tipico del proprio paese d'origine, immagino. Sì, devono cucinarlo a casa e devono poi portarlo lì, lo si può riscaldare col microonde se dovesse essere un piatto caldo. E quando ho sentito il contributo che avete lanciato, e l'anno scorso infatti c'era questa squadra che si chiamava Italia-Spagna Purchese Magna, perché era una squadra mista di italiani e spagnoli, però poverini avevano fatto una frittata così piena di cipolla che è stata, non è arrivata nella classifica dei 3 premiati dalla giuria, perché era tremenda. E l'anno scorso vinse una squadra fatta da 2 ragazze rumene che portarono della cosa buonissima, una tipo polenta che si chiamava Mamaliga. Sì. E poi era, non so se tu la conosci. Io no, e ti dirò, dall'altra parte del vetro c'è anche il gastronauta di Radio 24, Davide Paolini, che anche lui ha fatto una faccia come per dire, boh, sarà, però noi ci fidiamo. Era buonissima. Il primo premio, accompagnata da sarmale, ossia polpettine di carne avvolte in una foglia di cavolo, servite con panna e un bel peperone, un bel pomodoro tipo lesso, un po' di riso. Ci sono anche le foto su Facebook, erano deliziose, cioè veramente deliziose. In teoria c'ero io, c'era il cuoco della mensa Forcellini, quindi molto più titolato di me, e un ragazzo appunto dell'associazione Erasmus di Padova. Buono. E infatti abbiamo organizzato l'Erasmus Masterchef proprio dopo Pasqua, perché i ragazzi Erasmus solitamente tornano a casa e poi quindi possono portare degli ingredienti. Vabbè, arrivano col cibo preparato dalla mamma, scusa, ma è un bluff. No, quello si spera di no, però porteranno sicuramente degli ingredienti tipici e li useranno per i loro piatti. Che in effetti, guarda, abbiamo parlato 1000 volte di Erasmus e di fatto anche comunque la cucina, il mangiare, l'incontro di gusti, sapori e tradizioni è uno dei... è un cuore, anche l'integrazione passa sicuramente anche da lì. Quanti saranno gli studenti in gara in questa mensa aperta per l'Erasmus Masterchef? Non lo sappiamo ancora, che stiamo ricevendo le iscrizioni, possono essere quanti vogliono, poi appunto i gruppi sono anche da 4, per cui l'anno scorso c'erano 5 squadre, ma quest'anno sembra che stia prendendo molto più piede la sfida e quindi ci aspettiamo molti ragazzi. E l'anno scorso dei ragazzi portarono un dolce fatto a molecola di saccarosio. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.